Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Iniziamo con oggi le nuove puntate del 2011, all'insegna questo il tema del primo dei nostri approfondimenti del design d'autore. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo invece della formula Drive, già sperimentata per molti supermercati con successo in Francia, ora sbarca anche in Italia. Focus sui trend dedicato invece al retailtainment, quando lo shopping diventa divertente. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità della settimana. Entra nel vivo Milano Moda Uomo. 87 collezioni in mostra, 39 passerelle per 36 marchi, eventi e cocktail dedicati all'uomo del prossimo autunno-inverno. Fino a martedì 18 gennaio. Nel biennio 2008-2009, in piena crisi economica, i consumi delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione media annua del 2,1%, tornando ai livelli precedenti il 1999. Questa l'analisi di Confcommercio, secondo cui la vera ripresa dei consumi arriverà soltanto nel 2012. Quasi un terzo degli acquirenti di prodotti di lusso ai saldi di Londra sono cinesi. Il Daily Mail l'ha definita la generazione Gucci, turisti molto facoltosi che fanno la gioia delle boutique della capitale inglese, dove sono stati assunti molti commessi in grado di parlare in mandarino. Boom dei viaggi sulle navi mercantili e porta container. Siti e agenzie di viaggio specializzate propongono crociere attorno al mondo, ma anche trasferimenti da un porto all'altro con ritorno in aereo. Cabine spartane e pranzi con l'equipaggio sono adatte ai viaggiatori curiosi e senza fretta. Dopo quella etnica, da McDonald's arriva la svolta verde. Nei menù dei fast food americani della catena è in crescita la proposta di piatti vegetariani, come la tortilla vegetale e il porridge. Un successo, tanto che in California il colosso è stato costretto a lanciare una campagna per ricordare ai propri clienti che vende ancora hamburger. Nuovo record di turisti a New York. Nel 2010 la Grande Mela ha attratto 48,7 milioni di visitatori. Siamo sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo dei 50 milioni di turisti all'anno, ha dichiarato il sindaco Michael Bloomberg. La borsa della spesa. Parlare di design, così come di arte, di moda, ma anche di pubblicità e comunicazione, significa molto spesso raccontare una storia. Una storia che da personale diventa collettiva e racconta il nostro tempo attraverso un'esperienza di eccellenza. È quello che fa un documentario uscito di recente dedicato a un grande designer, Lino Sabattini, ex operaio, classe 1925, artigiano, argentiere e designer insieme. Sabattini ha creato oggetti esposti nei musei di tutto il mondo e ha collaborato con i più grandi nomi e marchi del design, da Gio Ponti a Bruno Munari, da Cassina a Christophe. Quando si disegna si fa qualche cosa apparentemente astratto, ma è astratto per chi lo vede, ma non per chi lo fa. È un ritmo musicale, è una musica senza note, però una musica di forme e di colore. Ponti è venuto nel mio laboratorio sotto scala, dopo ha visto i pezzi, li ha pubblicati su Domus, e lui ha proposto di vendere alla Christophe tutti i miei oggetti moderni. Bisogna prima capire, imparare, poi dopo le cose si fanno da sé. Io non dico mai di aver già fatto una cosa nuova, la cosa nuova ancora deve venire. Fare, poi dopo poi qualche cosa maturerà. Non bisogna mai fermarsi, mai, assolutamente. Io andavo per conto mio e la corrente andava per conto suo. Soltanto che io non volevo seguire l'andamento della moda, del momento, perché la gente chiedeva questo. Non riesco a farmi capire che cosa vuol dire il mio stile. Il mio stile è un po' il mio carattere, capito? Il film vincitore del premio Asolo per il miglior film sul design porta la firma di Gianluca Migliarotti, regista, e Porzia Bergamasco, l'autrice. A lei abbiamo chiesto di raccontarci qual è la figura che emerge da questi 50 minuti di vita e di design. È sicuramente un uomo, diremmo oggi, un po' outsider, come dire. Un uomo che ha lavorato un po' nell'ombra, ma quest'ombra è sicuramente piena del suo lavoro, della sua voglia di dare forma alle idee. Infatti il suo monito, il monito che torna anche nel documentario, ognuno deve fare quello che sa fare. Ha espresso tutta la sua vita con questa idea e quindi è stato allo stesso tempo un esecutore, un interprete e anche un creatore, anche se lui laicamente contesta la parola creatore. Tutta la sua produzione parla di una creatività spontanea, artigianale, che produce cose, anche solo per il puro divertimento, perché lui dice facendo le cose poi maturano, arrivano le occasioni, l'occasione dà la possibilità di fare. E lui ha prodotto tantissimi oggetti, molti anche rimasti soltanto dei prototipi, perfetti nella loro esecuzione, perché lui era ed è tuttora un bravissimo esecutore, un bravissimo artigiano. Tutto questo aspetto artigianale è un aspetto che viene fuori. Lui poi dice non si inventa nulla di nuovo, però appunto con il fare si dà forma alle idee. Poi quello che viene fuori è che sicuramente lui lavora molto sul concetto della bellezza come espressione culturale, fatta di esperienze, idee e piccole grandi rivoluzioni formali, che è una tematica molto attuale. Che cosa può raccontare, insegnare un artista artigiano come Sabattini al design di oggi? Che il design è sicuramente il design, insomma la progettazione, il progettare, è un processo intuitivo, ma solo in parte, perché quello che insegna Sabattini è che bisogna conoscere il processo, dalla produzione alla distribuzione, e lui fa questo, dimostra questo e insegna questo. È un uomo tuttora, penso, in contatto con i giovani, con gli allievi, con chi vuole seguire il suo lavoro e con la modernità comunque. Beh sì, lui sicuramente ha voluto stravolgere quella che era la tradizione, ha fatto un lavoro grosso in questo, perché lui si interrogava sulla possibilità di creare degli oggetti nuovi nel contesto nuovo, ha concepito una nuova arte della tavola moderna, con oggetti moderni, con forme moderne. Lui ha lavorato molto sulla forma. E infatti sono oggetti attualissimi. Non hanno tempo, perché appunto esprimono comunque una forma del tempo, una forma che è di ricerca formale. Cambiamo argomento: dai fast food, la formula drive arriva anche nei supermercati. Ce ne parla il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. A Milano Bucinasco sta per essere inaugurato un nuovo modo di fare commercio che in parte elimina il negozio fisico. Lo presenterà il gruppo Auchan, che ne ha in portafoglio già una decina, soprattutto in Francia. Lo Auchan Drive è già stato sperimentato con successo anche a Torino e ha permesso la messa a punto del sistema di offerta e di servizio. Funziona in questo modo: si può fare l'ordine di spesa sul sito online, aperto 24 ore su 24, e si può scegliere su circa 7.000 referenze, pari a un grande assortimento di un supermercato fisico. Sempre online si sceglie l'ora in cui si passa al drive per ritirare la spesa. Il pagamento può avvenire sia attraverso il sito al momento della prenotazione oppure direttamente al momento del ritiro. Dopo aver fissato l'appuntamento ci si reca allo Auchan Drive e si ritira la spesa. L'area è un po' come un grande distributore di benzina, ci si mette in coda e si inforca la piazzola prevista. È il personale di Auchan che caricherà la vostra spesa sulla vostra macchina, fatto di non poco conto. Come dicevamo, il sistema funziona ed è ormai rodato. È più facile che passiate più tempo sul computer a compilare e scegliere che ritirare la merce. Il sistema è stato studiato per soddisfare consumatori evoluti che non vogliono più calcare i corridoi dei supermercati e non vogliono dedicare tempo al rito della spesa, perché lo ritengono ormai un fatto di routine e una perdita di tempo. ovviamente dovranno far combaciare orari di ritiro con la location e il loro luogo di lavoro o di residenza, ma sembra che questa sia tutt'altro che un impiccio. D'altronde è relativo anche per un altro retailer dell'online, come Esselunga. Il problema è comunque soprattutto per i freschi, ortofrutta in primis, che in genere viene soppesata visivamente e tattilmente prima di acquistare. Quel che conta sarà la fiducia raggiunta da chi eroga il servizio, quindi da Auchan. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, seconda parte, come sempre, dedicata all'analisi delle nuove tendenze in compagnia della nostra esperta, Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti e buon anno. Oggi parliamo di retailtainment, un termine che nasce dalla fusione di retail, che significa vendita al dettaglio, e entertainment, divertimento, indica tutta quella serie di accorgimenti in grado di intrattenere, coinvolgere, divertire il cliente nei negozi, al fine, questo è chiaro, di invogliarlo all'acquisto. Dagli ambienti multisensoriali alle vetrine interattive, dai concerti nei negozi, fino a veri e propri shop, sala giochi. Patrizia. Una delle leggi indiscusse e mai disconfermate dal mercato e dai manuali di marketing è che più il cliente sta nel punto di vendita e più aumentano le probabilità che compri. C'è cioè questa correlazione diretta tra permanenza e acquisti. Il retailtainment appunto è uno dei modi per raggiungere questo obiettivo, cioè intrattenere, riuscire a tenere le persone dentro i luoghi di acquisto, e questo vale per l'online così come per l'offline. Quindi che cos'è il retailtainment? È l'insieme dei dispositivi anche diversi che i punti vendita praticano e sperimentano per incoraggiare l'acquisto attraverso il divertimento nelle sue varie forme, e in questi luoghi dello shopping l'offerta sostanzialmente si integra, cioè ad esperienze altre che soddisfano questi bisogni appunto di svago, di intrattenimento, anche in chiave se vogliamo regressiva, di puro gioco, di spettacolo eccetera. Un primo esempio che voglio fare riguarda proprio il divertimento puro associato all'offerta. Al consumatore, cioè al cliente, viene offerta prima o dopo l'acquisto la possibilità di giocare. È un caso in cui il gioco diventa addirittura condizione vincolante, cioè si deve giocare e vincere per poter consumare il prodotto. Sto parlando della Smart Vending Machine lanciata dal marchio britannico di beverage Juicy Drench, il cui payoff è il cervello funziona meglio se è idratato, e questo punto vendita multiplo e disseminato come può essere una rete di vending machine, infatti ha 40 mini videogiochi integrati nel touchscreen, cioè nello schermo interattivo, che testano l'agilità e le abilità mentali del cliente un po' alla brain training, per capirci, quindi giochi matematici, di associazione eccetera. Vincendo, il dispenser rilascia la bottiglietta di succhi o di acqua eccetera. Quasi difficile immaginare un retailtainment più efficace di questo. La formula, diciamo, generalmente gira intorno alla sfida di rendere il familiare estraneo e un po' spiazzante. Questa è la parte divertente, all'insegna quasi del facciamo finta che. Un altro esempio, forse più noto, è Umpqua Bank, una banca di Portland americana, che è una sorta di concept store. Offre cioè altro rispetto al proprio core business, quindi eventi musicali, corsi di yoga, un coffee bar, ha un arredo e oggetti di design che lo fanno assomigliare molto a un negozio. Quindi entro, sono in una banca, faccio le cose che si fanno in una banca, ma anche altre, comunque non mi sento di essere in un istituto finanziario bancario, ma è come se fossi in uno spazio multiplex, appunto a offerta merceologica mista, che vive tra l'altro oltre gli orari diurni e quindi offre anche eventi di carattere ricreativo, intrattenitivo. E sempre all'insegna di questo come se, questa finzione anche comportamentale, mutuando le modalità di accesso al mondo dello spettacolo, il ristorante Next di Chicago, dove cucina pare il settimo migliore chef del mondo, che ha 4 menu tematici ispirati a tipi di cucina correlati alle relative epoche storiche. Quindi si può mangiare per esempio nella Sicilia del dopoguerra, nella Parigi del 1912, o come mangiavano i pionieri americani, oppure nella Tokyo del futuro. In questo ristorante non si prenota la cena via telefono, via sito, e si va, si cena e poi si paga quel che si è mangiato a fine pasto, ma si acquista un biglietto in prevendita online, così come si fa per i concerti, per il teatro, per una partita di calcio oppure per un biglietto aereo. Perché proprio come in questi casi si acquista un'esperienza culturale, alta o bassa che sia, che ha prezzi vincolati ai posti, cioè costa di più se voglio uno specifico tavolo il sabato sera alle 8 rispetto a un altro il martedì a pranzo, o ancora meno se prendo un last minute per un tavolo qualsiasi a un'ora qualsiasi. Ancora, Desigual, marchio fashion notissimo, che nel suo flagship store pilota di Barcellona chiamava ad una finzione comportamentale a sfondo ludico per il lancio, con questo negozio allestito come un mercato alimentare con le bancarelle. I capi erano nelle cassette di legno della frutta, gli altri le t-shirt appese ai ganci come prosciutti, i commessi strillavano come i pescivendoli o i fruttivendoli. Insomma, il cortocircuito, diciamo, cognitivo esperienziale ha sempre una sua alta efficacia in termini di intrattenimento e di divertimento. Il retailtainment, abbiamo sentito, si fa anche online. Coop, ad esempio, ha deciso di farlo con Casa Coop, una web sitcom ambientata in una comunità allargata, una comunità di casa, per così dire, a supermercato. Secondo me sei troppo timido, ti devi buttare di più. Di più? Ma 6 mesi fa ho chiesto l'amicizia a una ragazza su Facebook. Ah, e com'è andata? Non me l'ha data. Che cosa? L'amicizia. Ecco i volontari della spesa a domicilio, reduci dalla loro missione. Vi faccio vedere io chi ci sa fare. Eccolo là. Lo chiamano il giaguaro. Si apposta davanti al bancone della frutta come un giaguaro davanti a una pozza d'acqua. Adocchia la sua preda, la studia e... Sentilio, ma non è che hai trovato qualcosa? Questo qui mi convince, ma non vorrei che fosse indigesto. Il semolino, indigesto. Ma si sta parlando del libro che stai leggendo, ma cosa c'entra il semolino? Un'altra monoporzione, ma cos'è questa novità? Questa è una spesa da single. A volte chi è single si deve ritenere molto fortunato. A volte, ma io e te siamo felicemente sposati. Sposati siamo, sposati, per ora. Allora, tutto pronto per il grande incontro? Come il grande incontro? Chi me l'ha detto? La Mara ci ha invitati lei, io faccio il riso con la tapioca. Ah, questo piatto non mi è nuovo. Dico un bel tegame di salsicce e fagioli, no? Ora ti riconosco. No, ma che siete impazziti? Volete mettere le salsicce nel menù proprio oggi? Ma no, ma al povero Teo, ma che figura gli facciamo fare? Giusto, non possiamo mettere in tavola carne di maiale, dai, offenderemmo la sensibilità di Maria. Giusto, così per non offendere la sua, offendete la mia. No, tocca dargli ragione. In fondo è una piccola cortesia, così per iniziare un discorso. Ti devi rendere conto che ormai viviamo in un mondo globalizzato, pieno di differenze, però magari non sono muri, ma opportunità, no? Occasioni. Ricchezza. Va bene, ragazzi, ho capito. Basta, non rischierò di fermare il mondo per 2 salsicce, va bene così? Patrizia, il punto vendita diventa sempre più il luogo per raccontare qualcos'altro, oltre l'acquisto. Sì, ricordiamo come premessa che cosa rappresenta oggi il punto vendita, come dicono molti studiosi e analisti. È una piattaforma relazionale, è un meeting point, cioè un punto di incontro, e mi riferisco sempre sia all'offline, ai luoghi fisici che all'online. È un luogo di incontro tra marca e consumatore cliente, cioè il posto dove i prodotti parlano ai loro clienti, un generatore di esperienze, come stiamo vedendo anche oggi, di esperienze anche giocose che vanno oltre l'acquisto. È soprattutto un precipitato fisico, cioè l'incarnazione del mondo immaginario dei brand. Tra le più recenti e interessanti forme evolute di retail design, che è il modo per esprimere tutto questo e per entrare in relazione con i clienti consumatori, il nuovo concept store di Vodafone in Qatar. Sono 6 store, altri corner nei mall, e dei retail trucks, cioè delle postazioni mobili che vengono usate per le aree non urbane. Dunque non c'è l'insegna con il marchio, c'è solo il logo, quella specie di virgoletta bianca e rossa che conosciamo bene. L'accesso a tutta vetrata nel caso degli store, con porte scorrevoli e un payoff che dice "It's a big world, jump in". È un grande mondo, un grande universo, salta dentro. Quindi, partendo dal format dei flagship store globali di questo brand, sono stati creati degli spazi e degli ambienti, come si dice, immersivi, Che cosa trova il cliente una volta che è saltato dentro questo mondo? Bene, da un punto di vista di soluzione di retail design, lo spazio è bellissimo, è pieno di totem che sono delle colonnine interattive con schermo touch, e qui si può entrare nel mondo Vodafone, cioè navigare in tutta l'articolatissima offerta, guardare la propria posizione, le proprie bollette, eccetera. Una formula in cui il retailtainment diventa un intrattenimento legato proprio all'informazione anche tecnica, specialistica. In questo caso il retailtainment è all'insegna di una modalità divertente correlata però a un'informazione tecnica. Quindi si può intrattenere anche con l'informazione. E un altro caso originale molto efficace per la memorabilità del brand oltre che del punto di vendita è quella offerta dagli store Barnes & Noble, la nota catena di librerie, che ha lanciato un suo e-reader, il Nook, e per aumentarne il valore percepito dai fruitori che l'hanno acquistato offre l'accesso a contenuti esclusivi di riviste, libri, quotidiani, eccetera, da fare dentro gli store. Quindi si va nei negozi con il proprio e-reader e si possono fare gli acquisti consueti, e in più soffermarsi per tutto il tempo che si vuole sapendo di avere questo accesso esclusivo, questo plus solo per i possessori del Nook. Il retailtainment è anche il gioco più culturalmente sofisticato del mashup, del citazionismo, del rimescolamento creativo divertente e sorprendente già in sé come pratica da fare, ma anche per gli effetti che produce. Se poi il contenuto è un contenuto di per sé giocoso, come può essere quello del mondo Disney e del fumetto, l'effetto entertainment è garantito. È quello che ha fatto il negozio del brand di moda giapponese Uniqlo, che è un interessante esempio di ibridazione di codici tra retail e arte. Il negozio infatti è allestito come una galleria. Espone giocattoli di carta disseminati ovunque negli spazi espositivi ispirati al mondo Disney. Sono stati creati dall'artista Tanaka per il lancio della linea Kid Mickey by, appunto Mickey Mouse. Fare entrare l'arte nei negozi, combinare le opere, le merci, una tendenza di cui abbiamo già parlato, questa dell'arte che scende, diciamo, dall'Olimpo delle istituzioni culturali dedicate e va per strada, entra nel mondo dei consumi, oltre ad essere un'innovativa soluzione di design, è un altro dispositivo molto efficace per intrattenere e divertire non solo i bambini, ma anche e soprattutto gli adulti. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Tokyo su Retailtainment e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao Maria Luisa, un saluto a voi. Dunque, nella capitale del Sollevante, correre è diventata una vera mania, soprattutto tra i giovani. E questo è uno dei motivi che ha spinto il marchio Adidas a ideare un innovativo concept per l'apertura del negozio monomarca. Non un semplice spazio di vendita, ma un punto di riferimento e di incontro per gli appassionati della corsa. Si chiama infatti Adidas Run Base. E primo particolare interessante, non è localizzato nelle canoniche vie dello shopping, ma nei pressi del Palazzo Imperiale, che è diventato in poco tempo il luogo prediletto appunto dai runner urbani. Il negozio è aperto dalle 7 del mattino alle 10 di sera, orari atipici anche questi, per dare l'opportunità alle persone di utilizzarlo prima o dopo l'orario di lavoro, perché qui le scarpe e l'abbigliamento da corsa non sono solo in vendita, ma si possono anche noleggiare, con l'aiuto nel caso di uno staff di esperti, e partire quindi per il consueto allenamento e tornare con a disposizione armadietti e box doccia integrati nello spazio commerciale. Una volta alla settimana poi il negozio promuove incontri con esperti del settore nonché eventi a tema. Insomma, il punto cruciale non è più la vendita, quanto l'assecondare e facilitare le passioni e il divertimento dei consumatori. Grazie Alessia. Patrizia, si parla spesso della crisi del negozio fisico, della contrapposizione con il commercio online. In realtà, lo abbiamo sentito, ci sono molti segnali di vitalità. Questa tendenza lo testimonia del resto. Certo, ma il retail l'abbiamo detto, come luogo fisico e ambiente comunicativo è cruciale per i brand, perché è nei punti vendita che i marchi parlano direttamente ai consumatori e ai clienti attraverso prodotti e servizi e l'esperienza che riescono ad offrire. Il retailtainment è un modo, tra gli altri, particolarmente efficace per trasformare gli spazi in palcoscenico, dove la merce e lo stesso consumatore vanno in scena e entrano in questi mondi divertenti. Dunque, in questi luoghi dello shopping la dimensione ludica è davvero un valore aggiunto e i luoghi fisici chiaramente hanno un vantaggio su quelli online, a partire dalla multisensorialità, ma anche proprio agli spazi fisici in cui si possono allestire e creare dei veri mondi. Chiude qui questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come tutte le altre dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.